Yo son sicuro que per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so. Tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno lo saprò. D'essere un piccolo pensiero nella più grande immensità di quel cielo. Sì, io lo so. Tutta la vita sempre solo non sarò. Nellie.